trasmissione digitale è una cosa che ancora non ha particolare valenza, diciamo, sul mercato interno. Sul mercato italiano però lo avrà sempre di più, anche perché è entrata in Italia grazie a due mondi particolarmente seguiti nel nostro paese, cioè il calcio e il cinema, ma soprattutto lo sport, il calcio in particolare. Questo ha permesso la diffusione dei decoder abbastanza intensa, soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni, anche a fronte di alcune agevolazioni che c'erano, ma già delle agevolazioni, quello che si faceva e fa mercato digitale è proprio la facilità, giusto, e anche appunto l'interattività. Non è questa la sede per parlare delle differenze tra digitale e satellitare, i tipi di sistemi di trasmissione, i tipi di televisione, eccetera, eccetera, perché già li sapete, già li avete studiati. Quello che è importante è capire come il messaggio, come il linguaggio diventa parte di questo prodotto e diventa quindi parte anche di questo strumento. Il digitale è di per sé, a differenza rispetto alla televisione, diciamo, analogica o comunque attraverso tutti i sistemi di comunicazione unidirezionali, come anche la radio a cavo, eccetera, è quella che permette di avere una interattività usando appunto il sistema binario. Quindi come tale c'è la possibilità di non solo di interagire, ma anche di essere a nostra volta protagonisti. Voi più di una volta avete avuto modo di quello che sull'analogico è il televoto, per cui bisogna per forza cliccare un po' il numero di telefono per votare in Italia piuttosto che una particolare programma. Allo stesso modo adesso questo si può fare attraverso il telecomando, e attraverso il telecomando addirittura in alcuni casi si può scegliere o il tipo di commento alla partita che si segue o il tipo di regia da utilizzare per seguire un avvenimento sportivo, o addirittura, che è già successo, la fine di un film. Ci sono vari finali, a seconda di come vengono votati attraverso il telecomando viene mandato poi in onda quello prescelto dalla maggioranza, o ipoteticamente prescelto dalla maggioranza, perché nessuno ha un notaio che verifichi questo, quindi veramente non c'è un solo finale assoluto, e poi illudono che sia quello prescelto. A parte le battute, fare sempre il discorso che vi faccia, il discorso delle regole che manca, il discorso della genetica digitale che è ancora molto di là da venire, per quello che riguarda le regole di accesso, le regole di sicurezza, le regole dei diritti d'autore e tutto quanto. Poi immagino parecchi di voi abbiano qui a casa un sistema digitale in casa, dal punto di vista televisivo, non ancora sfruttato appieno, non da voi quanto proprio da chi fornisce i servizi, perché si tratta di un confine, diciamo, tra l'informazione e la persuasione è molto facile da saltare o da portare sempre più in là come limite appunto. Quindi da questo punto di vista, anche in mancanza di una normativa seria, totalmente di una normativa, si fanno passi molto piccoli in lingue, però passi se ne fanno, per cui assistiamo a sempre una maggiore possibilità di interagire. Voi sapete che in alcuni casi, mi sembra anche in un paio di casi in Italia era stato fatto, poi è stato fortunatamente tolto, c'era anche la possibilità attraverso il telecomando di seguire uno spot pubblicitario e poi attraverso quello di interagire con esso per partecipare a un concorso piuttosto che per ordinare delle situazioni o dei prodotti, eccetera. Quindi anche su questo tutta poi la questione che non mi devo certo spiegare io della privacy, del, è un po' quello che avviene su internet, cioè il processo televisivo è di una televisione che si adegua all'attività del computer e lo fa suo grazie alla massa, alla maggiore diffusione e grazie anche alla maggiore praticità. Che là in salotto è sempre in fondo accesa la televisione, non è nemmeno più un oggetto che è lì, è un componente della famiglia, è sempre, fa parte della nostra vita quotidiana al 100%. Quindi il fatto di avere accesso a dei servizi delle informazioni, eccetera, eccetera, fornisce un gancio, un amo al quale poi l'utente si attacca o appunto nel peggiore dei casi e subisce anche il fascino di sembrare di avere l'impressione di essere lui a decidere finali di singolo piuttosto che scelte di prodotti, piuttosto che, e qui veniamo al centro del discorso che voglio fare, selezione di informazioni, perché anche per quello che riguarda le informazioni noi abbiamo un esempio classico che è quello di Sky, che ha recentemente aperto circa 8-9 mesi aperto una funzione che permette di seguire una serie di diciamo, prodotti informativi, si chiama Sky Active, ma poi c'è anche sullo sport per seguire donna, adesso quello che ci interessa è quello legato più al giornalismo, qualcuno di voi ha avuto modo di seguire la vedere la finestra interattiva di Sky? Allora, c'è una schermata normale della televisione, poi c'è, si può con il tasto verde del telecomando, si scarica, anche poi il tuo telecomando, perché abbiamo in casa ormai una quantità tale di telecomandi da poter sembrare alla NASA, più che altro. E con il tasto verde del telecomando si accede a una finestra interattiva, che è composta a sua volta da 6 finestre. E nelle 6 finestre la redazione mette quella che ha colpito sono i tratti del giorno. Una resta fissa su quello che sta andando online in quel momento, una è sempre dedicata allo sport, una è sempre dedicata al meteo, ma le altre tre sono delle notizie in primo piano o degli approfondimenti particolari. Chi li sceglie? Chi li decide? Cioè quella che è la nostra scelta di andare a vedere queste cose in realtà è una non scelta, perché attraverso la l'opzione digitale di poter cercare in un più ampio offerta di informazioni, in realtà queste informazioni sono limitate ai quei tre fatti, oltre appunto alla diretta, allo sport e al meteo, che ci sono stati prescelti, preselezionati dalla redazione. Sia chiaro, non è una condanna, non è una critica a questo servizio, è un servizio comunque che permette di avere sempre come nel podcast radiofonico o di internet la possibilità di rivedere cose che magari non abbiamo avuto l'opportunità di seguire in un altro momento, nonostante, non dimentichiamolo, Sky sia una retro news, cioè sia una rete che trasmette le tipologie di quattro informazioni, quindi a rullo, a ogni mezz'ora, a ogni ora al massimo, trasmette aggiornamenti sulle notizie, comunque gli aggiornamenti sono sempre presenti nel ticker a fondo schermo con le breaking news. Però al di là di questo è proprio la concezione del digitale inteso come uno strumento prima ancora che un servizio. Non è ancora possibile farlo appieno sulla TV pubblica, perché il digitale terrestre sulla televisione pubblica è molto indietro, ancora soltanto riservato a prodotti chiusi, non a prodotti con i quali si possa interagire. All'interno si fa ancora esclusivamente su sondaggi, eccetera, però per dirvi come anche il linguaggio giornalistico alla fine poi venga frammentato, venga a sua volta accorpato in vari servizi, chiamiamoli, che poi vengono messi in una sorta di finestra che resta lì fino a quando la redazione lo decide. Non c'è la possibilità di vedere delle sottofinestre, non c'è la possibilità, questo è chiaro che comporterebbe anche problemi tecnici e problemi di maggiore investimento da parte della società, ma anche da una affrontata da parte dell'utente medio di seguire questi servizi, perché noi stiamo parlando di una televisione che comunque in Italia ha molti apparati, ma sono comunque soltanto 3,5 milioni di abbonati, diciamo pure di famiglie, non rappresentano certo la totalità del mercato, molti di loro sono poi bar o circoli che si erano abbonati per seguire i pacchetti di calcio o di sport in generale, per cui diciamo che dal punto di vista proprio di utenti singoli, di famiglie vere e proprie, non siamo sopra i 2 milioni. Rappresenta sempre comunque un campione importante del mercato televisivo e anche diciamo dello spazio sociale che si occupa di questi temi. Lo share che a volte Sky riesce ad ottenere mi pare tra il 7 e il 9% in alcune occasioni, ma è sempre legato ad avvenimenti, non a una serie di servizi giornalistici, eccetera. Comunque quando la 7 dice noi abbiamo raggiunto il 3% di share, ma lo raggiunge oggi con una rossa come lo raggiungeva l'anno scorso, un anno fa, con il processo di scambi, non con una serie di sequenziali. I risultati di quel livello, il mercato televisivo in Italia oggi è totalmente bipolare, non esiste praticamente alternativa. Quelle che vi sto raccontando sono alternative commerciali, che però sono interessanti proprio per studiare questo percorso che la televisione va a fare, cioè una televisione che così come la radio ha scoperto internet per diventare qualcosa di diverso, anche la televisione sfrutta la logica di internet, cioè la logica digitale, per riaffermare attraverso il grande schermo, notate, non a caso, il fatto che poi a sua volta la scienza informatica porta, la tecnica informatica porta internet a essere utilizzato con schermi sempre più grandi, esclusivamente non per una questione di mania di grandezza, ma per far assomigliare anche dal punto di vista proprio psicologico lo schermo del televisore allo schermo di internet. Allora lo schermo del televisore dovrà farsi, allarga ancora, fa il plasma, fa il 42, fino a che avremo dei fluidi completamente pieni in mano con dei computer, però in più i palmari o i laptop sono sempre più piccoli, perché quello te lo puoi permettere di portare dietro, cosa che il televisore non può essere. È sempre una guerra poi giocata dal punto di vista commerciale da parte delle società che costruiscono questi prodotti, dall'altra è anche una questione proprio psicologica, sociologica, utilitaristica e di servizio, e anche su questo si potrebbe parlare a lungo. Però restiamo sul tema del digitale per dirvi come ancora dal punto di vista televisivo non si sfruttino bene i servizi, cioè una società che in Italia ha provato, sta parlando grandi risultati, lo ha fatto poi attraverso un accordo anche con Telecom, attraverso i servizi poi a banda larga, per arrivare non al vicino, per arrivare alla televisione. Anche in questo caso si tratta di servizi che poi si fermano a servizi di pagamento di bollette o di home banking o qualcosa di poco più, ma non hanno ancora la funzione della informazione vera e propria, sono informazioni di servizio, sono comunicazioni, non sono informazioni, diciamo, quotidiane, online, giornalistiche. Questo perché? Perché questo per un grosso lavoro di preparazione, un grosso lavoro di redazione, un grosso lavoro di sintesi. Questo è un altro, sempre per tornare alla praticità delle cose che vi dico, è un altro dei pensieri del futuro, non è il massimo forse della vita mettersi lì a sintetizzare, a fare il piccolo bastone delle cose che accadono per poi metterle delle finestre interattive di uno schermo che sia di PC o di televisione, ma se siete bravi a fare questo è un mestiere come tutto il futuro c'è. E a proposito di sintesi e brevità, passando sempre a un altro strumento legato alle tecnologie informatiche, c'è la questione dei notiziari o delle informazioni mandate attraverso la telefonia mobile. Anche qui è esattamente lo stesso ragionamento, basato però sulla estrema sintesi e sull'estrema maneggevolezza dell'informazione. Cosa vuol dire maneggevolezza dell'informazione? Vuol dire che l'informazione te la puoi portare davvero in tasca, la puoi portare in taschina mangiata, la puoi portare nella borsetta. hai un cellulare che con un segnale acustico o meno, con una cadenza che tu stesso puoi scegliere, soprattutto con i costi che vuoi e puoi sostenere, ti dà delle informazioni, anche queste classificate per categoria, può essere lo sport, può essere la politica, può essere l'economia, può essere le notizie dall'estero, eccetera, eccetera. Cosa forniscono anche questi servizi? Forniscono esclusivamente dei flash, perché forniscono o un'immagine o un mini filmato o alcuni caratteri di testo che non superano mai, non dico i 166 o 160 classici dell'SMS, ma mai nel fatto. Lascia anche sotto il fondo, così impari a non seguire me. A questo punto è tutto che è possibile, l'uso della tecnologia. Da questo punto di vista anche la telefonia mobile rappresenta una frontiera esattamente parallela a quella che abbiamo appena visto. Grande schermo, piccolo schermo, la cosa portatile, la cosa comoda. Qui abbiamo la praticità e soprattutto l'essere sempre con delle informazioni in mano, cioè con delle informazioni che permettano di essere parte del cerchio dell'informazione e anche del cerchio della comunicazione interrelazionale. Se io so il risultato di una partita, mi faccio bello e desidero agli altri. Se io so che ho una informazione, una notizia che è avvenuto un terremoto piuttosto che un colpo di Stato o un crollo in borsa, io sono in grado di dire ai miei amici perché sono abbonato a quel servizio e faccio bella figura con gli altri, dico lo sapete che. Ecco, i servizi da quel punto di vista lì sono utili, oltre a essere informati naturalmente, perché infatti anche per vedere ha necessità di avere informazioni di questo genere, sono destinati a un pubblico che ha anche il gusto di sapere le cose sempre e di poterle anche poi comunicare ad altri. È un servizio quasi, adesso non voglio dire immagine, però è un servizio che ha una sua funzione anche la sociale, per le persone, il personale, per chi lo usa e per chi lo usufruisce. Ma al di là di quello che è il significato, è importante capire che cosa viene messo dentro a questi servizi. Appunto, vi dicevo, vengono messe delle immagini, o delle icone, o dei grafici, o dei mini filmati su quella telefonia che poi può supportare questo genere di software, per cui c'è anche tutto il discorso della cambiare telefonino ogni 6 mesi perché questo ti permette di avere eccetera eccetera eccetera. I testi, che è una parte che ci interessa di più da questo punto di vista come linguaggio, sono estremamente non sono dei testi di agenzia, sono a volte sono fatti titoli dei testi di agenzia, proprio perché c'è l'immediatezza che questo server manda in giro, che immediatamente a testo più breve, che compare in una sola schermata, quindi è immediatamente percepibile. Il costo è soprattutto legato a volte agli approfondimenti, perché ti danno anche lì la notizia del risultato della partita, però se vuoi sapere il tabellino, se vuoi vedere i gol, devi essere pari quel servizio, sempre uno 0,10 in più, ed è tutto fatto diciamo a uso e consumo del mercato. Come si costruiscono queste cose? Si costruiscono esattamente come si costruisce un piccolissimo giornale e ti può aiutare nel capirlo la dimensione dell'oggetto. Più l'oggetto è piccolo, più la sintesi è importante. Si potrebbe tranquillamente anche mandare 10-15 sms con informazioni oppure far accedere attraverso un WAP o un WebDS a una serie di finestre di servizi. Attraverso quelli fa vedere praticamente di tutto, ma non è la funzione del cellulare, perché il cellulare serve in determinati momenti della giornata, in determinate situazioni, ma noi ormai abbiamo e avremo sempre di più la possibilità di considerare il telefono mobile come semplicemente un passaggio tra le varie situazioni nelle quali abbiamo accesso a informazioni più vaste, che sia il computer del lavoro, di casa, che sia la televisione, che siano i giornali che troviamo. Però vedete, che io i giornali esercitati sono tanta alla fine, i giornali inevitabilmente pagano lo scotto di essere in terreno ritardo rispetto a questo flusso di situazioni che stiamo analizzando, perché stiamo parlando di cose che accadono e parleremo poi di cose che verranno commentate. Quindi da questo punto di vista inevitabilmente lo scotto che deve pagare il giornale tradizionale o il media tradizionale, che però alla fine si riduce soltanto alla carta stampata, perché la radio può comunque intervenire in qualche modo, la televisione può fare sempre una diretta, abbiamo visto addirittura poi con il digitale sempre più interattiva, internet lo sappiamo, quindi chi ne paga le conseguenze dal punto di vista di immediatezza è esclusivamente il giornale, ma nonostante questo i giornali forniscono anche loro servizi online e quindi servizi anche su internet proprio per evitare questa di essere lasciati indietro da questo punto di vista. Ruolo fondamentale di questi servizi lo ricoprono le reti di stampa, perché diventano fonte da conti diretti, si ritrasformano in un certo senso in conti diretti, perché ci seguono. Cioè, seguendoci noi non abbiamo nemmeno più il dubbio del fatto che questo non sia avvenuto, perché se arriva sul mio cellulare, vuol dire che è stato selezionato, vuol dire che è veramente qualcosa di importante, perché se no con tutte le notizie che ci sono, che lì 10.000 agenzie che ci sono ogni giorno, anche che esploderebbe il telefono, ma non si avrebbe più la possibilità di capire cosa è importante e cosa no. Noi dobbiamo fidarci di una selezione, di una sintesi relazionale che viene fatta e che seleziona quelle 2-3 notizie al giorno, perché poi alla fine non sono di più quelle della selezione assolutamente, e su quelle considerare fare la scaletta dell'importanza delle notizie della giornata. Quindi anche da questo punto di vista è un po' la vera esaltazione del servizio giornalistico da parte delle agenzie di stampa, perché non c'è il mettere il flusso delle notizie come avviene normalmente sui PC, come scorrono le agenzie, che ho aperto il mio adesso, scorrono agenzie di agenzie, sono tutte le... Adesso non posso collegare, però su quello che vengo a vedere, se lo giro, è uno scorrere di notizie che continua ad andare avanti da mezzanotte a mezzanotte, no? Sono tutte le agenzie italiane e estere le principali, perché farei fatica ad essere tutte nuove Cina, e ti danno tutto una quantità di una mole di informazioni tale delle quali c'è stato chi ha un attimo di vantaggio, nel senso che o lo fa per mestiere o sa che cosa avviene in determinate situazioni, può cercare di cogliere quello che accade in modo un po' più immediato. Da questo punto di vista poi ci sono ovviamente delle informazioni che arrivano in un certo modo, anche con un flash di agenzia, ci sono segnali eccetera. Però quello che poi invece ci viene alla fonte selezionato, ci viene inviato tramite telefonino, ci mette allo stesso tempo sullo stesso piano di un qualsiasi giornalista, di qualsiasi persona, di qualsiasi operatore di informazione, di qualsiasi persona più informata rispetto a noi, perché noi otteniamo nello stesso momento quell'informazione. Non è esattamente così, perché noi sapremo sempre qualche minuto prima quello che avviene, però permette una democrazia digitale sicuramente più ampia, sempre che la democrazia digitale sia basata sul fatto di poter accedere tutti alle informazioni nello stesso tempo, con le stesse possibilità anche di poter distribuire, quindi dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera. Su questo il tema del digital divide che avevo fatto all'inizio delle elezioni credo debba sempre essere presente, è quello che voi potete vedere, quello che voi potete fare è enormemente più grande e più fortunato, diciamo così, rispetto a quello che avviene per la stragrande maggioranza delle persone. Mi sto riferendo soltanto al terzo mondo, al quarto mondo, mi sto riferendo anche a persone che partecipano alla vita con voi nel nostro paese. Siete una un'elite privilegiata da questo punto di vista, perché ottenete una serie di informazioni, di notizie, ma anche di esperienze abbastanza positive che sono in riferimento di avere a vostra volta la possibilità di farle, di mediarle e di portarle ancora. Ci tenevo a farvi quest'ultima. La rapidità, questo è un esempio di rapidità, 10 volumi di 10 anni. Questo è già il fatto della bellezza di questo sito, dall'idea di come poi ci sia un mondo che non avanza, no? Il fatto, con tutto il rispetto, saranno 10 volumi incredibili, però la logica che si sia fatto un volume all'anno per raccontare la storia di una città è significativo di come curano determinati servizi, determinati modi, di come altre situazioni invece sono ancorate a una tradizione che non che sia dura a morire, perché debba morire, ci mancherebbe altro, non c'è nulla di più affascinante che sfogliare dei libri, leggerli, curarli, vederli, è una delle cose più belle che ci siano. Ma non possono anche i libri, anche l'editoria tradizionale, dobbiamo così dimenticare che la società corre a rischi diversi, quindi l'idea di fare il progetto editoriale 10 anni è veramente quello sì, inizia, diventa quello sì, a sua volta una cosa elitaria destinata a pochissime persone, al di là dei costi, proprio perché non c'è il tempo di seguirlo. C'è una cosa che non ha avuto fortuna ancora sulla scatola informatica, che è quella dei libri elettronici, di ebook. Gli ebook non hanno avuto fortuna esclusivamente perché non si è voluto fare in modo che avessero, per una questione di copyright, e non è una questione di troppa facilità di successo. Se le società editrici, se le aziende editoriali decidono di mettere attraverso internet prossima saga di Harry Potter, piuttosto che che ne so, l'ultimo romanzo di Stephen King, la facilità di poi diffonderlo, la facilità anche di scaricarlo, eccetera, eccetera, porta a un crollo verticale di tutto quel mondo che è basato sulla fisicità del libro stesso. Quindi c'è una fortissima resistenza, anche con in un certo senso anche logica e giusta da parte delle aziende editoriali di tutelare nel modo più rigido col copyright questo tipo di editoria, questo tipo di produzione. Allora, io credo più o meno di aver finito, adesso guarderemo poi i vostri blog per vedere se siete sulla strada giusta da qui alla settimana prossima, 25, però voglio sapere da voi se ci sono delle cose che non mi sono chiare, delle cose che non vi ho detto, perché ovviamente è possibile anche quello che avete letto in giro, sulla quale volete sapere qualcosa, o se lo chiedete ora o vi sentirete in un'ora fatto. Posso chiedere? Non comprendo. No. Praticamente ieri facevo un giro per i siti istituzionali e sono andato nel sito del Quirinale e diceva praticamente dava delle notizie, però non istituzionali a mio modo di vedere, cioè ad esempio di scolpava Napolitano per il fatto della guardia di Milano, del Cristo, un po' una cosa del genere. Cioè ho notato che non è funzionale, cioè nel senso, ad esempio sotto se fa sotto c'è scritto la nota Napolitano in proprio coinvolge la presidenza della Repubblica in polemica. sotto colpo. Dice, è improprio rivolgere la presenza della Repubblica in politica su materie che non corrispondono al suo potere mai. Cioè io non l'ho vista istituzionale come ad esempio il sito del governo, per esempio. No, non è così, però bisognerebbe darti ragione, ma non è così. Il discorso è così fatto. Questo sito è un sito istituzionale, ma non per questo i contenuti devono essere totalmente istituzionali. Se il Presidente della Repubblica si sente chiamato in causa da una situazione che è stata in modo anomalo, pubblicizzata da parte dei centri politici, che ritiene di rispondere. Se teniamo presente che da un punto di vista istituzionale il Presidente della Repubblica non dovrebbe parlare mai, perché dovrebbe parlare soltanto dei messaggi motivati alle Camere, però anche questa comunicazione, tutti i Presidenti della Repubblica, da Cristina in poi, ma anche le stesse partiti, hanno usato i mezzi di comunicazione per dire cose o comunque per mostrare un'immagine diversa del proprio ruolo, del proprio servizio. Cosa è successo in questo caso? Che così come il Presidente fa sapere qual è la nota che ha dato in modo istituzionale per la festa della Repubblica, altrettanto, essendo stato chiamato in causa attraverso i mezzi di comunicazione del Presidente su questa vicenda, ha ritenuto di dare una sua risposta. Poteva tranquillamente non farlo, non era venuto a farlo, però una volta che lo ha dato ai mezzi di informazione non c'è ragione perché non lo debba scrivere il suo sito ufficiale del Quirinale. Forse perché magari il Quirinale non deve far vedere quello che fa, nel senso il governo è una qualità più istituzionale perché naturalmente fa vedere quello che fa, per esempio tutte le sue le cose insomma, che adotta, decreti, quello e quell'altro, mentre magari il Quirinale è più esempio da questo tipo di. Questa è una nostra questione che ci può stare, tutto guardi i comunicati, le note sono quasi tutte note istituzionali, sono cioè comunque è sempre Napolitano che parla, cioè comunque è fatto sulla figura del Presidente, non sulla figura magari della Repubblica, del tipo parlare di... No, ma la scelta qua è di parlare, questa è ragione, senza voler criticare il capo dello Stato, indubbiamente c'è una scelta da parte di Napolitano di c'è la scelta da parte di Napolitano di parlare molto di se stesso e meno dell'istituzione, però l'istituzione c'è. È chiaro che si è scelto di mettere due immagini sue invece di un'immagine della parata piuttosto che della maglia di bambini con il cappellino che salutavano le frecce tricolori. È una scelta anche questa editoriale. Se noi andiamo a vedere le fotografie, questo non ci ho fatto caso, ma se noi andiamo a vedere le fotografie probabilmente saranno quasi tutti a questo punto e quasi tutto di tutto sue. Non c'è una... è stato scelto di personalizzarlo molto, è quasi un sito personale. Del resto il sito è della Presidenza della Repubblica, quindi come tale non è il sito della... comunque nel senso di osservazione ci sta tutta. Vediamo se anche nelle foto di corazzieri di San Simone. Comunque si è capito la conservazione dei conti. Comunque si vede là ma è chiaro, c'è una protezione di un certo tipo. Anche quando c'era Gianni, io non ho mai visto più il finale. Era un po' più lungo. Però ha finito soltanto le parti Va bene, altre domande? Per quale motivo questo blog non è una critica del quadro, è una considerazione. Per quale motivo motivo questo blog dovrebbe essere più interessante di altri, oppure tu mi puoi rispondere perché dovrebbe essere, non è detto che debba essere, che non è una classifica di cose più interessanti o cosa no, semplicemente mettere le proprie cose e avere una possibilità di fare una finestra per sapere lo fare. Tutto questo è assolutamente vero. E si possono gli altri blog degli altri grossi urbani? Sono quasi tutti? No. Se lo volete, quindi ti hanno mandato le mail. Chi non ci si trova lo dica, se qualcuno ha un blog che non ci si trova, più lo dica. Quindi da questo punto di vista è una sintesi che a me va anche bene, però il rischio è che quando uno lo apre, perché uno va sempre a vedere il profilo delle cose, il rischio è appunto di non essere attrattivi, anche se in questo caso c'è una parziale e abile soluzione, che è quella di citare una serie di blog che danno l'idea di avere comunque un rapporto con altri. Se voi troverete, proviamo facilmente, sicuramente nei blog che sono citati qua non ci sono sempre delle citazioni di altri blog, questo è un gravissimo errore, perché si ritrova a essere chiusi. Prendiamo uno a caso, tanto per vedere se si conterò. Chi è il Giardino di Armida? Vediamo cosa c'è. Vedete che non ha link di... non ha particolarmente link di altri blog? Lo cargo, no? Però è significativo, prendiamo un attimo. Chi è a quattro mattoni? Voi ne avete messo il blog? Voi li avete messi, vedi? Bene, torniamo dopo. Allora, forse si è scelto anche di postare delle immagini. Abbiamo fatto, è stato letto 757 volte questo blog, quindi insomma abbastanza seguito. Ho fatto le foto tutte lo stesso giorno, Daniele, per annoiare. Ma Daniele fa solo foto? No, no, vabbè. No, si mangia. Ci sono dei commenti? No, i commenti non sono casi. Ho commentato Giorgio. Come mai? Mi chiede ai suoi amici di... No. Ha una rete di contatti? No. Voi qua avete suddiviso le rubriche? Va bene, dato sul canocchiale ci sono una serie, se voi andate al canocchiale, guardate lì là. Adesso addirittura c'è una nuova piattaforma ancora. Vedete cosa viene messo sul, siccome ci sono una serie enorme di video, di blog, vengono messe soltanto le prime 4-5 righe, e quindi anche da questo punto di vista l'abstract è importantissimo per farsi andare a leggere, no? Altrimenti uno è questa buona settimana. Può passare assolutamente nell'interesse totale, perché questo una settimana a noi non interessa, dice come ho fatto domenica, aspetto che Monica mi spedisca le porte, mi fa piacere, ma c'è poi una cosa vecchia di mesi e non c'è altro, dimostra già di per sé di essere qualcosa di abbastanza vago come blog, ma lo si cattiva, nonostante sia guardato il doppio di quello che ha fatto rispetto a prima, ma forse solo perché è partito prima, diamo di questa speranza. Per quello che vedete, gli ultimi arrivati, vedete che sulla colonna di destra ce ne sono quelli che sono stati aperti oggi, ma guardate l'indice completo. Se voi guardate l'indice completo, avete qualcosa pazzesco, questi qua, i più visitati, guardate il numero di visite, siamo a 1.800.000, 1.700.000 visite, e non sono blogger così pazzescamente visitati, però sono tra i più visitati ovviamente, perché guardate l'alfabetico, guardate quanti ne siano. Quindi sono quelli soltanto che se guardate le pagine che ci sono di voi. Calcolate soltanto che ogni pagina ne tiene, vediamo quanti, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, una quindicina, fate la moltiplicazione. Capirete quanti sono i blog soltanto iscritti a questo servizio, è uno dei tanti. Poi ci sono quelli chiaramente che non sono più attivi, ci sono quelli che sono stati aperti, sono stati chiusi, sono stati usati soltanto un giorno, ma per darvi un'idea della dimensione che abbiamo, vediamo ad esempio questo qua che è il più, andiamo a vedere il più visitato. Questo è un blog assolutamente politico. È un blog ovviamente di parte, perché lo vedete dalla serie di mondi di internet che ci sono a fianco, no? Però evidentemente ha una sua, vedete il numero di commenti, 170 commenti una notizia, 315 commenti una notizia, qui siamo a livelli proprio di essere, cioè, ovviamente non c'è una sola persona dietro a fare questo lavoro, per ovvie ragioni, tant'è vero che come vedete non c'è una biografia, ci sono una quantità di link che sono quasi tutti poi legati al mondo, in questo caso del centro-destra. Però vi dà l'idea forte di che cosa, quanto sia la facilità di trasmissione, di comunicazione, di informazioni da questo punto di vista, ed è uno strumento di grande, diciamo di grandissima semplicità, ma anche di grandissima facilità di deviazione da questo punto di vista dalle situazioni. Non lo so, ditemene se volete aprirne uno, lo apriamo, di questi 50 più visitati, come volete vedere, prima di giocare a voi. Il blog di Papa. Questo è un blog personale, questo è quello proprio, un blog personale, ma è un blog dove c'è anche qui una forte influenza biologica, perché come vedete è un blog che parla molto delle questioni legate a Israele, infatti c'è un link all'onde della Nierenstein, e da questo punto di vista tra l'altro quelli legati a al mondo ebraico sono tantissimi proprio, sono veramente tantissimi. C'è una, potremmo facilmente dire perché sono gratuiti, però è una facile partita. Il discorso è ben diverso, c'è una capacità di attenzione sui temi che si sentono particolarmente cari, come sono ovviamente quelli legati alle persecuzioni, non alla lotta religiosa quanto proprio all'identità religiosa, che spingono fortemente un senso di appartenenza. C'è questa rete veramente molto forte, così come c'è una rete molto forte della sinistra più radicale, c'è una rete molto forte di donne, ancora più forte legata al mondo ebraico, al mondo degli intellettuali ebrei, anche e soprattutto in Italia. Questo è da notare, dal punto di vista politico è molto significativo. Allora, torniamo ai nostri blog. Facciamo un blog che non sia fatto da più persone, ma uno solo. Elena, Elena. Allora. Vedete che in questo caso, allora, commentatelo voi, dai, io dovrei sapere cosa è. Commentatelo voi. Fatevi coraggio, non ci se ne avrà male. Questa che è la prima immagine, è la prima da Instagram. Sì. Ah, Ah no, quella, ah dice quella del blog, no, no, quella è proprio fa parte del, del template. Non si possono, ci si possono scegliere dei template con delle immagini in alto. Osservazioni da fare, ci possono anche scegliere, ci possono creare anche delle immagini di caratteristica. Si possono anche creare delle notizie, è anche più facile essere, essere letta. Chi ha avuto, prima di andare con la radio, chi ha avuto proprio problemi insormontabili di quel posto? Per vedere di. Abbiamo ancora la settimana di tempo, 20 giorni a seconda di vita lavorativa. Avete avuto problemi pazienti per costruirlo? No. Qualcuno che vi è venuto a rompere le scatole sul blog, l'avete trovato? A me non ha lasciato commento, un po' strano. Sicuro che la riferimento ad una sentenza che adesso era fatta, ma... cercava con un po'. Ce l'aveva con un po' di italiano. Ah, sicuramente l'ha mandata tutto il mondo. Sì, secondo me si è trovato il cartello stato forte sulla mente della rivista. Probabilmente l'ho letto in pubblica, ha letto qualcosa e mi ha mandato tutto questo. Altri altri che sono stati visitati in modo anomalo? Sì, a volte faccio dei messaggi sono niente per vedere con quello che si è scritto per metterti il link. Per fare in modo, fare in modo che vai a vedere la rivista. Male. È una tattica per poter essere più letti e più visitati, perché poi alla fine si scatena anche una sorta di concorrenza data dal maggior numero di visite, eccetera, eccetera. Chi è stato pochissimo visitato, proprio la miseria? C'è qualcuno che non ha superato le 50 visite? Contra se stesso naturalmente. Non sapete che ci sono dei modi per farci visitare. Ok, andiamo a vedere un'altra cosa. Sono due maggiore, forse. Andiamo sul blog, forse. Chi è questo? Io 40 la seconda. La foto con la foto del mondo. Perché prima della chiusura? No, perché era una... Non hai visto nemmeno le informazioni personali, ho fatto la tastiera. Allora, i commenti non ci sono, le visite non sono. Molto più dettagliato, no? qualcuno che ha usato Flask, aspettate di aiutare la triste in questo. Chi ha fatto Flask? Chi ha usato Flask? Aspettate le due. Hai sentito la domanda della triste? Senti la domanda della triste. Sei riuscito a visualizzare dal numero delle visite nel, come state con gli altri nel presidente o anche sai di più che bisogna fare tanti altri programmi? No, anche a proposito della, della quantità di possibilità di lavoro che c'è in questo genere di anche trasferibile negli Stati Uniti, però vedermi come questo mondo che è assolutamente, come posso dire, virtuale, in realtà poi porta una concretezza di lavoro, perché se vedete soltanto per quello che voi state studiando in questi anni, il media coordinator, il public relations manager, piuttosto che ovviamente tutta roba tecnica, però ci sono delle figure che potrebbero interessarvi. Ed è questa la realtà che è totalmente in venire all'estero, ancora non è in Italia. Voi non trovate su questi mondi delle possibilità di lavoro quando aprite dei siti italiani, perché ancora viene tutto fatto in modo molto artigianale, però quando si va tutto a queste dimensioni inevitabilmente. Però se noi andiamo su un motore di una realtà italiana, facciamo sia un piuttosto che Google, troverete che ci sono delle opportunità di lavoro anche qua. Cosa significa questo qua? Bisogna aggiornare la home page durante il weekend. Qualcuno di voi ci ha guardato dentro a questo aspetto qua? Sì o no? Ah. Queste sono le nuove, se noi andiamo su Google troverete normalmente, sono questi i lavori che dovete cercare voi. Google. Collegamento, evidentemente uno che seleziona i materiali dall'Italia e poi sta collegamento con. Possiamo andare avanti anche a cercare altro. Poi ovviamente vedete, se guardate i siti di Zurigo e Londra ci sono altri aspetti, è chiaro che in Italia ce ne possono essere meno. Lo vogliamo guardare. Non abbiamo capito se dicendo ancora il sistema locale. Thank you.

niente. Io si sono venuto parenti. E poi posso andare avanti. Posso andare a scoprire la sua gente e copiargliela? Con la sua foto? Persino la possibilità della consultazione integrale. No, questo è già pagato. Se non lo trovo in modo. Vabbè, c'è già l'altra. Vedete che ha messo le parole chiave per farsi con per farsi problema. Cosa facciamo ancora? Vediamo il coefficiente di tipo medio e vediamo come andrà a scuola. Vedete come quante tracce si possono lasciare, capite come poi la questione della adesso se non si apprende la stessa colorazione. No? Sono mille. Vediamo, ma mi sa che non è troppo distante. È chiaramente più un nome strano, meglio più facile. Nessuno si chiama Mario Rossi, è un po' più difficile. Queste sono le. No, questo mi permette di parlare due minuti di una cosa importante. Voi sapete il famoso discorso delle scuole di giornalismo, no? Che hanno poi tutta una serie di strumenti di comunicazione. In questo caso la scuola di giornalismo di Urbino, la Ducata, la scuola di Bologna, la Stefani, sono tutta una serie di agenzie di stampa che poi vengono anche messe online, poi possiamo vedere un po' la. Questa è la, diciamo, il sito online della scuola di giornalismo di Bologna. Anche qui ci sono delle cose che vale la pena per voi curiosare, perché ci sono delle dei testi e delle informazioni che vi possono essere utili per i vostri. Cosa fanno fare? Fanno fare un settimanale, un mensile cartaceo con questo online. Vedete che non è nemmeno fatto male, tra l'altro. E tutti gli studenti hanno tutta questa. Non lo spazio per fare le interviste ai vari personaggi, sono molto bolognacentrici, però. È normale che sia anche così, non è il massimo, non è normale che sia così. Questo invece è il quotidiano online, educato della, questo parliamoci della radio. È il giornale online che viene fatto dalla scuola di giornalismo di Urbino. Vedete che i docenti si sono fatti un blog. Non parlo anch'io, ma hanno fatto allungato esclusivamente, vedete anche loro, una piattaforma. Che hanno messo dentro i loro commenti, non so chi siano altri docenti. è un chissà. Loro hanno fatto una testata, una televisione, una radio e l'online, quindi hanno fatto giustamente, hanno lavorato molto con questo punto di vista. Abbiamo bisogno di esempi. Thank you. fare da ragazzi, ormai tutti fanno tutta una serie di cose pubblicate online, quindi anche fare un giornale online è stato bellissimo, se ci capisce come gente poi non so cosa fare, dove trovare, cercare un bambino. Questo è quello della scuola di giornalismo di Milano, le donne avevano partito. E anche questo è abbastanza famoso, penso che l'abbiate già sentito nominare. Quindi non cercate di curiosare, questo magari no perché è abbastanza triste, però cercate di curiosare in giro. Per evitare di essere vittime di quella trappola si può provare appunto alternativamente a fare mestieri, a iniziare professioni direttamente nel nuovo modo di fare giornalismo, cioè appunto i giornali online, i siti che si occupano di informazione, le radio sul web, eccetera. Tutte queste realtà, ve l'ho detto per tutte queste settimane, hanno bisogno di contenuti. Un giornale, una testata, un mondo che comunque fa comunicazione ha bisogno di contenuti. I contenuti possono anche essere immagini, non devono essere per forza testo. Noi abbiamo sempre ragionato con avendo davanti l'idea della parola scritta. Tenete presente che non c'è solo la parola scritta, il giornalismo è anche immagine, è saper girare dei video, è saper fare delle fotografie, è saperle montare, saperle caricare, saperle scaricare. Quanto pesa un filmato è importante a volte quanto il filmato stesso è bello o interessante, perché c'è anche la questione proprio di saperlo rendere il più possibile fruibile. Tutte queste tecniche sono fondamentali per poter essere con voi sul mercato. La stessa cosa vale se voi volete crearvi una vostra realtà, volete aprirvi una cooperativa tra di voi, volete fornire dei servizi, così come avete fatto blog a volte in 4 o 5 persone, potete allo stesso modo anche provare a offrire dei servizi in più persone in modo completo, che uno si occupi di girare i video, un altro di fare fermi immagini, di fare delle foto, un altro di scrivere i testi, un altro di portare con sé anche un'attività che c'è in marketing, perché anche quello ormai purtroppo è fondamentale. Quindi su queste cose dovete sempre presente, pensate internet non tanto come una rete di consultazione, ma come una rete di sfruttamento di buone occasioni di informazione controversa. Quindi dentro potete davvero trovare di tutto, potete trovarlo a costo zero, quasi, che vi può essere estremamente utile per il dopo. Ok? Andiamo a vedere il sito degli allevatori di Mantova, la prima puntata si chiama con quello, come non si chiama? Come avete costruito? Allora, decido di stabilizzare la costruzione. Insomma, il problema grosso è dall'interno, sapendo che non ci sono figure in grado di gestire, perché lo stanno facendo persone che erano già tra i collaboratori da tanti anni, e questo lo si vede fuori di mesa, anche nella stessa stessa. Quindi ci sono grossi problemi, non è assolutamente aggiornato, non si capisce di cosa facciano i pezzi, e inoltre credo che non sappia sfruttare delle opportunità, invece ho trovato magari in altre associazioni allevatori per la città, la città, io ho visto il blog, ho fatto un po' di commenti, quello di Bologna, quello di Firenze, quello di Italia, anche se sembra che faccio abbastanza bene. Niente, insomma, non ci sono tutti gli eventi che sarebbe anche proprio possibile quegli eventi belli ce ne sono tanti che potrebbero interessare non solo agli addetti ai lavori, potrebbero farlo un po' più grande dalla famiglia che ha un po' di qualche prodotto che sicuramente si può trovare nel mercato di c'è, il cioccolato che non viene visto come qualcosa di negativo che fa ingrassare perché sta per essere accettato da una ragazza in grande forma, se c'è il fatto che questa decisione che sono intorno a questo divano sono tutti sorridenti, felici, quindi entriamo in un mondo positivo, ok? Se uno non sapesse che cosa arrivasse da Marte di che capitasse di pubblicare nel 3, non capisce che cosa faccia nel 3. Sembra un sito della filosofia per i bambini, lo stare bene, l'armonia e lo sentirsi a posto. Quindi da questo punto di vista l'unica cosa che ti fa capire che c'è una qualcosa che è da vendere è dato dal fatto che abbiamo dei prodotti qua e il servizio è consumatore, ma non c'è altro motivo, perché questa non è un homepage che in realtà è istituzionale e rimane così, quando vuoi entrare devi andare nella finestra argentina e andare a vedere che in realtà ci sono tutta una serie di prodotti, dove se noi ne apriamo uno a caso automaticamente lì sarà immediatamente qualcosa da mangiare, da consumare, quindi quale, non lo so, se vuoi aprire Maxi Bon, se noi apriamo Maxi Bon, avvicinare a questo mondo proprio anche come un percorso, in questo caso quanto mai in questo caso di gusto, di qualcosa che sia attrattivo, ma se noi abbiamo un altro di questi anche qui vedete, vi dà le ricette, vi dà la scuola di cucina, non vi dice direttamente vieni a comprare i prodotti, vi dice, vi dà una serie di cose per cui in modo subliminale, soltanto vi fa vedere il marchio Brizzoni qua, la cucina in casa Brizzoni qua, i prodotti, però alla fine sono un di più. E il fatto stesso che tu sia venuta qua dentro, poi ti dà la possibilità di iscriverti a un club più che fidelizzarti, no? La comunicazione in club è fatta esclusivamente per fidelizzare. I testi sono esattamente quelli che troviamo in un sito di giornalismo online, cioè troviamo degli abstract brevissimi, delle immagini. È chiaro che qui troviamo delle animazioni che non sono consentite, diciamo, dal punto di vista di etichetta per quello che riguarda l'accessibilità. Perché comunque questo è un mondo già di per sé esclusivo, quello ti permette di venire in questo mondo, quindi è un mondo nel quale devono esserci cose belle, cose piacevoli, da questo punto di vista. Quindi i prodotti alla fine sono esclusivamente una scusa per venire a far parte di un mondo, ma questa situazione è stata fatta praticamente in tutto il... adesso no? È stato fatto in tutto il sito, perché se noi prendiamo a questo punto qualsiasi qualsiasi prodotto, anche il più banale, come lo svolto, non c'è subito scritto quanto questo sia buono o meno. Pensate cosa c'è, guardate. Che senso ha? Perché mentre uno sorseggia la tazza di fior d'oro, sta qui a giocare a Sudoku. Cioè, si pensa tutto, si ragiona su tutto da questo punto di vista. Stiamo soltanto vedendo un portale, noi possiamo andare su quello che so, della Coca-Cola, ma sarà tutto un gioco, sarà tutto una. No, non è questo. Non c'è nulla, è talmente vuole flash. Qua non lo faccio. Siamo sul altro, andiamo sulla... Sì, sì, l'ho preso su Ikea. Ikea, Ikea, Ikea vende. Sì, da, vende prodotti. Va bene, prodotti, perché è essenziale tutto. Per quale motivo ti deve dare un'idea delle cose? Ti dà il negozio e ti dice quando è aperto e basta. Ti dice cosa c'è di prodotti, ti dice come arrivare. Ma ti dà pure il prezzo dei prodotti. Proprio è forse vuole sottolineare il fatto che costano poco i prodotti. Io vado sulla Barilla, sarà la stessa cosa, solo che abbiamo messo la Nespresso, sarà il mondo Barilla, non si sarà comprare la pasta è la cosa più buona. Vedete che per la bambina c'è la Barilla Club, dove c'è la Bulldog Club, per paese dei sapori, la cucina italiana trova le ricette. La dieta è sempre qualcosa, questo è già più di prodotto rispetto agli altri, però anche in questo caso c'è qualcuno che fa i testi per questo qua, per raccontare come sono i nativi, la Montmartre milanese, che non c'entra niente con gli rigatoni ovviamente, con i succhi della Barilla, però entri in un mondo e però poi ti vedi, cercano un bello dell'Italia, se c'è una persona fisicamente che si è scritto queste cose qui. Ci sono una serie di... capite? Lo prende siamo stati di nuovo a una più di giocheria, però tutto nero, non è il massimo. Cercando automobilistica, ovviamente ancora siamo a livello più commerciale. Se andiamo invece ad esempio alla telefonia, questo di nuovo tutto. Vedete, ci sono video, storie, eccetera. Ci sono molti prodotti perché si dà per scontato che qua ci sia, però assomigliano molto, molto, molto. È solo il mondo alimentare che è. Thank you.